Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Non è certo detto che una vita, per essere interessante o essere raccontabile a un compagno di viaggio in treno, debba essere stata una vita sicuramente avventurosa o piena di imprevisti o con dei picchi al di fuori di ogni norma, di ogni regola, di ogni possibile racconto. Può essere anche una vita normalissima, e altro che una vita normale mi aspetto che mi racconti la persona che ho davanti a me, che ha tutte le caratteristiche del buon uomo. È una brava persona, è un bravo uomo che tutto sommato si lascia passare sopra le asprezze di un'esistenza che non può essere che altrimenti composta, le vive con filosofia e in qualche maniera si sente felice, e questo già per me è una grande conquista. Allora, ricordo più lontano, è un po' lontano, io ricordo più che altro quello che mi raccontavano, quello saputo, che comunque quando sono venuto al mondo è venuta a mancare la mia mamma. È morta dandoti alla luce? È morta dandomi alla luce. E tu avevi un'altra mamma? Chi te l'ha detto questo? Mio padre si è risposato. Ho tuttora una zia che adoro, che mi ha preso in casa con lei per i primi 3 anni della mia vita. Poi sono tornato ad abitare con mio padre e questa madre. Ma tu chi chiamavi mamma? La zia o la compagna di tuo padre? Poi ho chiamato la compagna di mio padre. Quindi praticamente ne hai avute 3 di mamme, una ti ha messo al mondo, una per 3 anni e poi dopo la tua definitiva, quella la compagna di tuo padre. Sì, 3, sì. C'era anche la zia, c'era, no? La zia, sì. La zia ha avuto diciamo il suo primo intervento appena tu sei nato, se no sì, ti ha svezzato, sì, sì. Diciamo. C'è un bel investimento ai primi di maggio io da fare comunque, perché comunque non voglio tagliare fuori nessuno, quindi il giorno della festa della mamma faccio un bel giro lungo di fiorario. È abbastanza poderoso. Senti, allora cominciamo i ricordi di te bambino. I primi anni non ti ricorderai, eri troppo piccolo. Ero troppo piccolo, sì, certo. Io mi ricordo, i primi incontri con i miei cugini, che poi sono stati anche i miei fratelli, e comunque poi l'andare a casa, tornare a casa e avere i fratelli e i cugini. Guarda caso la mia zia abitava proprio in faccia a me. Diciamo nella difficoltà di aver avuto una mamma che non hai mai conosciuto, però hai vissuto in una famiglia abbastanza protettiva, mi sembra, tutto sommato. Sì, no? Poteva sembrare così, però poi è stato abbastanza duro, perché comunque le varie vicissitudini sono state abbastanza difficili. Beh, cominciamo col periodo bello, quello più facile. Quanto è durato? Quello che ricordi più felicemente? È dura. E comunque sia la mamma, la zia, il famoso discorso del pomodoro, capito? A chi dovevi dare alla più bella? Forse, il giudizio, okay. Il giudizio di Paride. Il discorso alla più bella, ma alla mamma. Ah, ho capito. E ci stavi male, perché comunque il discorso era, dando ragione a uno davi torto all'altra, o comunque stando meglio da una parte ti sentivi in torto con un'altra. Ma diciamo, qual era diciamo, i due punti del dissidio, che erano la zia e la matrigna, ecco. Esatto. Tutti e due rivendicavano una maternità su di te. Sì, più o meno sì. Beh, scusa, meglio che essere maltrattato. Dopodiché, quando io ho avuto 7 anni, ho avuto una sorella minore. È nata dopo. Sì, è nata dopo di me, dalla, diciamo, come si dice, di secondo letto. Sì, di secondo letto. Comunque, sì, di secondo letto. E comunque, vuoi il limite, vuoi comunque che ognuno di noi ha i suoi limiti, ognuno di noi fa i suoi errori, ci mancherebbe soltanto quello. E si è sentito comunque lo scalone dell'affetto che la mamma aveva per lei e per me. Cioè per il figlio carnale e per il figlio, diciamo, acquisito adottivo. Bravissimo. Però, oddio, ci sta anche, siamo esseri umani, non è che... Lo so. Quella l'aveva partorita, è così. Mm-hmm. Tu eri, quanti anni avevi te quando è nata la sorella? 7 anni. Eri già un po' più grandino alla fine. Sì. Poteva anche però, starci. Però l'ho sentita, perché comunque... le mie difficoltà, comunque i miei danni che mi avevano creato già da appena nato, me l'ha fatta risentire. Ma quali erano i danni? Non me l'hai spiegato ancora. Però. Ho avuto una asfissia neonatale quando sono nato. Ah, beh, un problema neonatale, sì. Ma ti dava delle conseguenze fisiche? Sì, mi ha creato delle conseguenze a livello psicologico. Più che psicologico, sarà proprio neurologico, probabilmente, penso, no? Sì. Se non, psicologico, se non lo sapevi, non è quello. È neurologico, che poi si è sviluppato dal neurologico. Sì, ti ha creato dei problemi, diciamo, hai avuto dei danni. Esatto, ma questi ti hanno impedito di avere una vita di relazione, oppure... No, assolutamente, anzi, o comunque ho viaggiato, comunque sono arrivato... Quindi hai fatto una vita tutto sommato normale, sì. Ecco, non è che... Ho visto tante di quelle cose. Tutto quello che mi passa per la testa sembra avere senso, quando penso che la vita forse un senso non ce l'ha. Certo, non è bello quando guardo il mio castello in aria e penso che un castello così bello sulla terra non ci sta. La mia età non è questa, è almeno la metà. Passami il mantello nero, la mia spada da torero. Oggi salvo il mondo intero con un gioco di magia. Non sarò mai abbastanza cinico da smettere di credere che il mondo possa essere migliore di così. Tutto quello che mi serve adesso è ritrovarmi con me stesso, anche se spesso con me stesso ritrovarmi non mi va. Certo, non si può nemmeno stare tutto il giorno a disegnare una casetta con il sole quando il sole se ne va. La realtà qua. Passami il mantello nero, il costume da torero. Oggi salvo il mondo intero con un pugno di poesie. Non sarò mai abbastanza cinico da smettere di credere che il mondo possa essere migliore di com'è. Ma non sarò neanche tanto stupido da credere che il mondo possa crescere se non parto da me. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Il treno va. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. siamo arrivati adesso, aspetta, 7 anni che è nata la sorella e comincia a sentire che qualcosa in famiglia cambia, però è normale, sì. Questo capita a qualunque bambino, anche nato dalla stessa madre, la gelosia, sì, per, sì, e va bene, certo. E che hai fatto? La vita è voglia, ancora hai voglia a camminare, avevi 7 anni. Sì, quello lì è vero, quello lì è vero. Sei diventato adolescente, immagino, a un certo punto. Sono diventato adolescente. E ancora tutto nella norma, tutto diciamo. Tutto abbastanza tranquillo, nella... tutto abbastanza normale. Ma c'è uno scalino in cui la vita cambia a un certo punto, adesso mi parlavi di un momento brutto. C'è stato lo scalino, perché dall'avere tutto, dall'avere nell'abbondanza ad arrivare a non avere proprio più niente. Questo è una disgrazia economica familiare? Economica, sì. Vabbè, una famiglia che ha avuto un momento brutto. Per tuo padre che lavoro faceva? Era un imprenditore. E quindi ci sta tutto, che l'imprenditore a un certo punto può perdere tutto in un colpo, ecco, una cosa del genere. Sì, sì, sì, sì, assolutamente. Quindi stavate bene e a un certo punto sono cominciate difficoltà economiche. Esatto, esatto. E tu quanti anni avevi? E difatti tutto questo, io avevo 23-24 anni. Ma quel tempo cosa facevi? Studiavi? Già lavoravi? Cosa facevi? No, già lavoravo nell'azienda di mio padre. Ah, quindi eravate tutti e due sulla stessa barca, sì, alla fine? Sì, sì, sì. Tu hai conosciuto questo scheda all'improvviso da una situazione agiata, ci si trova poveri. Come sì, te ne sei, esatto, reso conto? Come è successo? Raccontami com'è successo il fatto. È successo che comunque ho visto chiudersi la ditta, ho visto provare mio padre a tentoni a rialzarsi. Tu eri già dentro, volte, quindi eri consapevole di questo, cioè sì, lo seguivi. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Ma ve ne siete resi conto all'improvviso o è una cosa che ha dato, no, qualche segnale? Sì, ci siamo portati dietro, ma siccome lui era fatto alla sua maniera, le cose le so solo io, sono bravo solo io, non dava retta mai a nessuno. Quindi un pochino si è sopravvalutato nelle sue possibilità. Sì, esatto, perfetto. Quindi perfetto. Diciamo, uno sbaglio in famiglia, non è che da prendersela, sì, con, sì, qualcuno. Sì, sì, sì. Nessuno vi, no, ha rovinato. No, capita, no, ha fatto un passo falso e me l'ha pagato, certo, caro. Assolutamente sì. E ha perso tutto, esattamente tutto. Tutto. Ma ci voleva, perché da quelle ceneri è rinato il Beppe, sono rinato io. Quindi da un giorno all'altro tu ti sei reso conto che non era più la vita come prima. Che, esatto. Esatto. E cosa è cambiato subito? Cosa hai dovuto smettere di far cosa che prima facevi? Prima si andava tutte le sere al bar, adesso no. I tagli in cosa erano? Fammi capire. Non aver più quell'affetto che poteva essere quello del papà, perché era stato male. Il fatto comunque di aver perso tutto. Aveva vergogna verso i figli, era mortificato. Avere dei punti in famiglia che praticamente sono crollati. È una grossa mortificazione. Che proprio si è frantumata in tre. Ma perché la moglie l'ha lasciato quando è andato in disgrazia? No, non l'ha lasciato. E allora, qual è il problema? Il problema era solo pratico. Lì per quello. Però non quello è il fatto. Il discorso è che poi da tutto questo disastro sono rinato io. Fammi capire il meccanismo. Io sono ancora rimasto che siete diventati poveri, quindi da un giorno all'altro non sapete, siamo più diventati poveri. E come avete tirato avanti? Cosa vi siete inventato? E ci siamo inventati che io andavo al sabato alla Caritas a prendere da mangiare. Ah, quindi proprio una situazione di indigenza estrema. Esatto. Andavo in giro e diventavo matto con queste bollette in mano. Anche perché la famiglia era numerosa, c'avevate tanti. Sì, lo so, ma tanti si erano sposate. Quindi tu sei diventato praticamente il padre di tuo padre, hai dovuto pensarci te. Più o meno, diciamo, perché non sono stato proprio bravissimo in tutto. Vabbè, mica uno può essere perfetto, era anche giovane. Vabbè. Era lui il capofamiglia, era abituato che le decisioni le prendeva lui, ma esatto. In queste situazioni penso un uomo si annichilisce, si mortifica, esatto. Non sa più cosa dire, esatto. Si sente sconfitto. Esatto. E tuo padre poi cosa ha fatto? Come è andata a finire per lui? È andata a finire che è morto di depressione in un ospizio. Quanto tempo dopo? E dopo penso comunque un 6 anni. Quindi non sei più ripreso dalla mortificazione? No. Sei depresso, è rimasto solo? Beh, tristissimo, questo uomo che sembra un uomo attivo tutto sommato, che aveva costruito. Aveva combinate di ogni, ma era stato veramente un grande. E che aveva combinato? Con perché i suoi dici? No, ne aveva inventate talmente tante. E aveva sempre questa testa che era sempre in funzione. Non pensava solo una cosa, ne inventava di tutto. Quindi è una persona intelligente, attivo. Molto intelligente, molto attiva. Ne trovava di cose da inventare ne escogitava proprio, era molto forte. Nel campo del suo lavoro, dico? Nel campo del suo lavoro, sì. Quindi era un creativo, evidentemente, però sai chi ha troppa fantasia alla fine si affida troppo alle illusioni più che alle realtà, magari ha fatto un passo che non doveva fare, questo. Esatto, però dopo tutto questo ambaradam sono nato io, nel senso che io a questo punto ero fermo, non facevo niente dalla mattina alla sera, non trovavo lavoro, mi sono messo a fare volontariato. Fare volontariato perché almeno l'ergoterapia ti aiutava a far tenere attiva la mente. Sì, questo è ammirevole che tu ti occupassi degli altri, ma a voi chi ci pensava se nessuno lavorava? Lo so, ma io dove potevo arrivare arrivavo, dove non potevo. È come se mi ero messo in lista per vedere qui dove facevo volontariato se potevo diventare dipendente, e ce l'ho fatta. Ah, sei entrato, diciamo, in una Ollus, cos'era, un'organizzazione? Esatto, una Ollus. Ah, beh, sì. È un lavoro, beh, quello è un bel lavoro, comunque un lavoro. È splendido, è un lavoro splendido. Quindi hai cominciato a cambiare, diciamo, la tua vocazione da imprenditore, sei cominciato a occuparti del terzo settore, si chiama così, diciamo, il settore. Sì, esatto. Ah, beh, sei entrato un imprenditore di terzo settore. È bellissimo, una cosa stupenda. E quindi sei riuscito con questo a riacquisire una dignità di vita, no? Esatto. Però non vedo tragedia a questo punto, anzi mi sembra tutto sommato abbastanza fluido, salvo la tristezza del papà. Forse riusciamo a guardare nello specchietto e vedere il tunnel, e penso che non tanti ce l'hanno questa fortuna qua. Ma sai che comunque io tante volte quando mi trovo un ostacolo davanti, invece di buttarmi giù, a volte mi dico, ma guarda che comunque con tutto quello che è passato fino adesso... Però scusami, ma qua non me l'hai detto cosa hai passato, perché non ho ancora capito bene. È stato particolarmente brutto il momento, diciamo, della depressione economica, ma fino a che punto eravate arrivati voi? Non aver più nulla? Non aveva proprio più niente, aveva soltanto debiti. Ma la casa ce l'avevate? Sì, finché ce l'abbiamo avuta. E dopo? Ho portato via anche quella. E che avete fatto dopo, quando non c'è più la casa? Io me ne sono andato per i fatti miei, da solo. Sono chiesto di andare a fare il custode in questa Onlus e facevo sia il custode sia comunque lavoravo alla sera quando c'era bisogno. E diciamo, e la mamma con gli altri, con i fratelli, che fine ha fatto? E si è spezzata tutta la famiglia, siccome io non volevo stare in mezzo a questi fuochi ho detto io... Ma spezzata in che senso? Ma non c'è mai stato un bellissimo rapporto fra di loro, penso che sia nata male, sia finita un po' peggio. Cioè la famiglia d'origine non accettava questa donna che aveva sposato tuo padre? Esatto. Ah, ecco, esatto. Beh, non me l'avevi detto prima. E lei comunque non ha fatto niente per farsi accettare. Sai, uno mica è obbligo che ti accetti una famiglia, alla fine uno sposa un uomo, non i parenti. Quindi diciamo i nonni e la zia, adesso capisco, non hanno mai la consideravano un'intrusa. Ma no, la zia non l'ha mai considerata un'intrusa. Ma i nonni sì. Ma neanche, ma penso i figli, i miei fratelli maggiori, non c'è mai stato un legame. E beh, loro erano figli di un'altra madre, non l'hanno... Sì, esatto. No, esatto. Tuo papà era ancora giovane, aveva diritto a ritrovarsi, a rifarsi una vita, no? Vabbè, penso proprio di sì, penso proprio, ma guarda, non te lo so spiegare come può essere. Ma sono meccanismi, se le famiglie organismi complessi, non è che così facile assolutamente così. Assolutamente sì, assolutamente. E questa donna la vedi ancora, te la senti? Sì. E cosa fa adesso lei? Niente, pensionata. Ma io ho una forza addosso che riesco ad andare d'accordo con tutti. E la sorella? Quella ultima? La vedo anche lei. Sia quelle sotto e quelle sopra. Sia quella minore che quelle maggiori. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play, bang, bang. I shot you down, bang, bang. You hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Now he's gone, I don't know why. And till this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby shot me down. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Il treno va. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Mi sembra che però alla fine di tutta questa tragedia di caduta sei abbastanza ritornato in piedi. Sì, sì, quello sì, quello sì. Ecco, com'era, diciamo, il rapporto nel cambio radicale? Immagino te, tuo padre, la tua famiglia, una famiglia anche rispettata, ma soltanto invidiata, un imprenditore in fondo. Sì, sì, sì. Quindi avete avuto molte persone che vi frequentavano perché avevate un buon giro. Assolutamente. Facciate una bella vita prima, diciamo. Sì, sì, sì, sì. Ecco, com'è cambiato invece il rapporto? Cosa è vivete? È cambiato facilmente, che se prima erano in 6-7 a venire a mangiare alla sera a casa, dopo erano tutti occupati, non si vedeva più. Ma vivevate in un piccolo centro, una provincia, cos'era? Sì, una provincia, sì, sì, sì, eravamo in provincia. Quindi poi sono rimasti in due gli amici, da tutti gli amici che c'erano, sono rimasti in due, sassamenga che maniera. Cioè, vi hanno voltato la schiena tutti? Sì, esatto. Cioè, non c'è pietà per chi fallisce, così? Esatto, esatto, purtroppo è così. Ma tu a quel tempo avevi una fidanzata, un qualcuno con cui... No, non frequentavi nessuno? No, anche il fattore fidanzato è stato abbastanza complicato. Complicato, ho tappezzato comunque la camera, la mia tappezzeria della camera è fatta a due di picche con sui nomi, praticamente. Ah, cioè tu ogni volta che avevi un amore che finiva male lo scrivevi sulla tappezzeria? No, questa qui era una mia metafora che mi ero inventato io. E com'è? Allora, se ogni ragazza che metaforicamente io ho fatto il figlio mi dava due di picche, e io gli scrivevo il nome, con tutti quelli che ho raccolto potevo tappezzare. Ma perché, scusa, non riuscivi a no. essere simpatico? Non lo so perché, non lo so. Ma scusa, all'inizio, che quando stavi bene, che eri ricco, eri un buon partito. Eppure ti dico, guarda, non è andata. Racconta la delusione più grossa in questo campo, così capiamo di vedere cosa c'è stato. La delusione più grossa è stata una ragazza fantastica. Lei studiava psicologia a Torino, era una ragazza meravigliosa. Quindi eravate sui 20 anni tutti e due? Sì, sì, sì, meravigliosa. Tu ancora eri ricco, sì? Sì, era nel momento del declino. Cioè era già finito, diciamo, cominciava a scendere. Sì, sì, sì. Quindi tu hai fatto un po' di corte. Ha visto tutto il mio declino, ha visto il mio andare a sbattere contro quello che è stato l'alcol. Ah beh, cioè, hai avuto anche un momento, diciamo, di abbattimento particolare. E di questa persona mi ricordo che mi caricava la bicicletta in macchina e mi portava a casa. Vabbè, era un'amica a quel punto di vista. Carissimo. ma questa amica e io poi mi sono innamorato. Tu eri segretamente innamorato, ma per lei, diciamo, in più era anche psicologa, ti usava come, diciamo, terreno di studio e ti voleva bene perché ti aiutava. Certo, però ho detto che per il lavoro a casa non me lo porto, giustamente, c'ha ragione anche lei. Capisci? Scusami. Ma tu gliel'hai detto lei? In ufficio, a casa no, eh. Ma gliel'hai mai detto lei che era innamorato? Sì, lo sa. Ancora viva? Quindi d'accordo, c'è ancora? Sì, c'è ancora. E quanti anni sono passati? Sono passati ormai 20-22 anni. E tu ancora ne sei innamorato? Cosa ci pensi? No, vabbè, ogni tanto mi viene in mente, mi è venuto nel ricordo. E lei che ha fatto nella vita? L'hai seguita? Cosa ha fatto? No, lei è andata via, non è più, vive da un'altra parte. Sì, c'ha una famiglia, c'ha figli, moglie? Non lo so, non ti so dire, guarda. Scusa, perché non la cerchi? Proverò a cercarla, non so. Se t'ha voluto allora, non t'ha voluto allora, che eri giovane e ricco. No, ma salano. Poi ci sono in giro troppe amiche iettatrici che bombardano, più non ci provi, più queste vengono a rompere le balle. Ma perché iettatrici? Perché rompevano le balle tutte le volte che ci provavo, io le beccavo, perché poi erano anche delle incapaci totali a fare le battute sottovoce, le beccavo sempre. Ma fammi un esempio, tutti sapevano nel vostro giro che tu eri innamorato di questa. Esatto. Quindi lo sapeva anche lei, se lo sapevano tutti. Per forza. Ma se lei non ha fatto nessun passo verso di te, a lei non gliene importava niente. Appunto. Fattene una ragione allora. E che c'entrano le amiche? Ma certo. Una persona ti può volere o non volere, e non ti voleva alla fine. Amen. Ma le amiche, secondo te, cosa c'entravano invece? Magari si è lasciato un po' troppo anche sul giocare, non so. Però mi bloccavo un pochino mi bloccavano anche loro. Io. Che ti dicevano? Ma che dicevano queste amiche? È arrivato il cretino, è arrivato il somaro, così, che è arrivato il somaro, roba varia. Cioè, tu eri il somaro per loro. Ci sta. No, ci sta, per cosa facevi somarata? Questo devo capire perché. No, però perché era un tipo un po' particolare. E fammi un esempio. Era uno che comunque quando c'erano le riunioni o roba varia intervenivo sempre. Ero molto vivace, comunque. Ma le riunioni di che tipo? Fra amici, così, fra ragazzi? Riunioni, catechesi. Un giro di preti. Andava a catechismo ed era molto bello perché era un catechismo. Scusa, ma tu vorrai accattare nel giro delle ragazze di parrocchia, come fai? Quelle devi sposarle o niente, scusa. Però mica vero, sai, non è mica detto però. Perché? C'era un io giro. Io ero anche pronto, non avrei detto di no, Quindi tutte le altre, diciamo, pie donne dicevano no, lascialo stare. Ah, lascia stare quelle, esatto. Magari anche il prete ci mette la sua di buono, no? Ma a volte c'è la parola buona. No, quello di prima no, però il secondo sì, guarda, perché poi c'è stato un cambio di guardia lì, anche lì. Prima mi dava una mano, magari l'altro no. Ma tu ti eri confidato col prete e gli avevi detto, guarda padre, cerco una moglie. No. E perché magari ti aiutava, no? Facendo il tipo no, guarda. Cioè c'era tutto questo harem di giovani catechiste e non ti dava una mano a sposarne una? Niente da fare. Fuori di quel giro sei mai riuscito a trovare qualcuno che ti desse? Niente, sempre due di picca, non mi ha voluto mai nessuna. Tutta la vita. Tutte, l'ho provate tutte, però alla fine si sono parlate. Detto anche quello là me l'ha chiesto a me 2 settimane fa. Non voglio recriminare su un passato doloroso, ma tu andavi sempre a saltellare nello stesso giro, si conosciano tutte, chiaro. Lo so. E potevi cambiare almeno parrocchia, almeno. Lo so, scusa. Tu ci provi con una, poi con l'altra, chiaro, ti prendono tutte in giro. Certo, lo so. Ma non ce n'è stata una nemmeno ti ha dato un pochino più di attenzione, niente? No. E com'è, ti hai rifatto la fama? Ma è andata. Quanti anni hai adesso? Io comunque ne ho 47. Vabbè, ma sei giovane, dico, ancora hai voglia. Parli come fossi uno che ormai. Ma non puoi provare a cambiare un po' il giro, tanto per avere qualcuno che ti faccia compagnia. Vedremo se arriverà. E vedremo che aspetti, fra un po'. Ma sto bene anche così a sto punto. Ma a me se stai bene, scusa, se tu stai bene da solo, è un altro discorso. Se arriva una persona che comunque. Ma tu le cerchi o non le cerchi le persone? Ma sì, io le cerco. E attraverso quale canale? Continui sempre con la parrocchia? Ma attraverso comunque l'incontrarsi per strada, chiacchierare. che è la cosa più bella, non i social network, ma pensi non ci ha mai provato attraverso, ne so, un'applicazione per trovare compagnia? Non mi ispira assolutamente. Magari una signora un pochino più grande, no? Non ti è venuto però non c'è trippa per gatti sto periodo qua, sono mia. Vabbè, da quanto racconti te sono 20 anni che non c'è trippa per gatti. Lo so. Questa è una tua idea, non è così in assoluto. Magari non è così, vedresti. Vabbè, posso dire una cosa? Se a te non interessa, perché devi farti problemi? Che ti importa? Scusa, no? E pian piano si va avanti. Se non ne senti il bisogno, ma che devi crearti un problema? Quindi vivi da solo praticamente? Vivo con questa mia zia con cui sono stato 3 anni. Ah, quindi ti ha adottato la zia? Quanti anni ha la zia? Sì, ci siamo ritrovati. Vabbè, zia e nipote, mi sembra... È ottimo. Mi sembra un ottimo connubio. Sì. Lei quanti anni ha la zia? Ne ha 30 più di me. Vabbè, tu l'aiuti, tu l'assisti, lei... Esatto, lei mi aiuta, certo. Lei ti fa da mangiare, ti lava i panni, ti fa... come una mamma. Perfetto, esatto. Beh, tu sei come un ragazzo che è rimasto in famiglia, che problema. Esatto, più o meno, sì, più o meno. Lei è contenta, ci sta bene con te? Sì. Sei uno zitellone praticamente. Ah, è perfetto, siamo a posto allora. Adesso la situazione l'avete, diciamo, appianata, quella economica, no? Sì. Quindi, assolutamente, scusa, sì. Chi sta meglio di te in questo momento? Sì. No, non sei contento? Sì. Avanti così. La zia non ti dice mai, forse è bene che ti accasi, ti trovi... No. Vabbè, mica è matta, scusa, a sto punto. Ma no, se te ne vai te, finisce la sua assicurazione per la vecchiaia, è certo. Ma no. Tu per lei sei l'uomo importante, tutto sommato. Sì, lo so. There's a dark waiting for the sun to shine. There's a cloud being lifted from my mind. Si avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Il treno va. Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori. Ma vedi com'è strana la vita, questa è la persona che ti ha svezzato e adesso tu praticamente ti occupi di lei in un'età che... Ma è bellissima, è una cosa molto molto bella, cioè mi si è aperto un nuovo mondo. Certo, ma tu ancora lavori, diciamo, nel volontariato? Sì, sono sempre in quella cooperativa. E di chi ti occupi, diciamo? Dimmi qualcuno che ha delle situazioni peggiori delle tue, che tutto sommato ti fa sentire fortunato. Ma allora, io lavoro in una cooperativa che si occupa di ragazzi disabili, di persone svantaggiate. E questo mi sembra un ottimo lavoro, no? Io penso che da loro ho più ricevuto che neanche dato, perché io posso dare un qualcosa, ma ho molto più ricevuto da loro. Sì, questo lo dicono molti, che se ne conosco abbastanza bene la situazione. Sì, lo so benissimo. Solo che una cosa è averci un figlio, una cosa è farlo per mestiere, scegliendo di farlo. No, lo so. Ben diverso, capito? E quindi... E loro stanno bene con te. Adesso diciamo che adesso non lavoro tanto con loro, ma molto di più per loro. Cioè, anch'io sono una di quelle persone che porta l'acqua a questo posto. Cioè, nel senso che sei svantaggiato anche te, questo lì. Cioè, sono anch'io svantaggiato, però lavoro, ma non lavoro con loro. Cioè, tu mantieni la struttura, lavori la struttura. Fai un lavoro. Sì, lavoro come gli altri della struttura. E vabbè, comunque sempre finalizzato al loro benessere, alla fine. Ma certo, assolutamente. Alla fine. Probabilmente la tua vita l'hai organizzata così. Ed è giusta così. L'importante certo. Cos'è? Avere un equilibrio e riuscire a essere sereni. Ci sei riuscito? Sei riuscito? Sì. E quando senti la tua, diciamo, mamma adottiva, cosa ti dice? No, niente, siamo ancora in ottimi rapporti. Niente di che, niente di più, niente di meno. E invece la figlia del papà come l'hai vissuta? Questa sua decadenza, questo declino? Ma gli è stato vicino in quel periodo? Lo seguivi oppure? Ho cercato in tutti i modi. Mi sono sentito anche... Ho visto andare via anche il papà, senza avere comunque la forza di salvarlo. E cosa potevi fare secondo te? Sembra strano che uno dice, però quando comunque non riesci a... le cose ti vengono portate via così, tu ti trovi, provi che cos'è l'impotenza davanti a certe malattie, davanti a certe cose. Lì ti fa male. Ma tu cosa pensavi di poter fare per lui? Non lo so, non te lo so dire, guarda. Ma era seguito da dei medici oppure? Sì, quello sì, ma poi non c'è stato più niente da fare. È proprio depressione. Certo. E in quel caso, sai, è difficile intervenire. È molto difficile, molto. Ma lui ti parlava gli ultimi tempi? No. Quindi non vi dice, ma perché non era, diciamo, ormai non rimasto la sua malattia, nel circolo della malattia? Così, sì, ma pensa, sì. Non era manco vecchio, sono fatto male i conti, alla fine. Non so. Non era manco una persona anziana. Non so. Vabbè. Devo dire che se tu sei riuscito a non deprimerti, nonostante sei passato così, la vita è sembrata così, diciamo, a saltelli, a volte generosa, a volte abbastanza traditrice. Hai maturato questa tua desiderio e piacere di solitudine relazionale, sentimentale, però ti occupi degli altri, quindi riesci a bilanciarlo. Sì. Amici ne hai? Sì. Sempre di quel giro lì? Sì, un po' di tutti i giri, perché comunque in paese mi conoscono tutti. Attraverso questi miei lavori. E come ti chiamano in paese? Ancora l'asino, no? No, no, no, no, no. Non è più il paese di prima, è un altro. Ah, è cambiato. Attaccato. Sì, sì, ho proprio. Beh, attaccato. Cambiato il mondo. È cambiato di 200 metri. Quanto è cambiato? Sì, è cambiato. Sì, sono 200 metri, ma in 200 metri è cambiato il mondo intero. È una società diversa. Spiegami questo è interessante. Come mai due realtà provinciali così vicine, una ti ha ben accolto e l'altra ti trattava come l'asino? Come mai? Qual è la differenza? Non lo so, perché comunque non ti so dire, ma una la vedo molto più aperta, molto più socievole, molto più che si può dire. L'altra era proprio bigotta, vecchia, bravi solo noi. Beh, bigotta, vabbè, ma tu bazzicavi il giro della parrocchia, alla fine un po' bigotti non è. Anche se non era in parrocchia, anche se non era in parrocchia, c'era un bel bigottismo. Ma di cosa ti accusavano, scusa, che avevi fatto te di male? Ma no, ma niente, però non lo so, sai che comunque quando c'è quello che un corso diceva lo scemo del paese. Quindi tu eri trattato come lo scemo del paese alla fine? Sì, va bene, perfetto. Ah, ecco perché le ragazze. Sai, è una sorta di bullismo paesano, cioè, come sì, fosse una classe. Esatto, esatto. E questo da quando. Esatto. Forse sai perché non avevi la mamma, magari, non lo so, magari. Non lo so, ma. Ma anche a scuola ti succedeva, da quando eri a scuola? Sì, qualche volta, sì, sì, sì. Tu ti sentivi come quello bullizzato da tutti, ecco. Sì, sì. Beh, però dovresti cercare di uscirne un pochino, questo fatto che non, ma sì, sì, sì, sì. Che non vuoi una compagna vicino. Ma io ne sono uscito, eh. È una dimensione della vita che secondo me dovresti sperimentare, stare un po' insieme a una persona, non lo so, non so, vedremo, sarà tutto da vedere. Ma vedere, dipende da te, se non ti va, non ti va. Certo. Con calma arriveremo anche lì. Ma non hai nemmeno mai provato a persone che non ci fosse un legame affettivo, così, tanto per avere una compagnia? Sì, sì, qualcosa, sì, sì. Ma ne ho passate di compagnie, ne ho viste. Se non me lo dice, tu ci hai detto, c'è tutta la camera da letto piena di firme con i nomi delle persone che ti hanno rifiutato. Però allora piglia un pezzo di parete. Poi però nel tempo, attraverso il lavoro, attraverso il discorso del lavoro, ho trovato delle persone che mi hanno accettato. Ma ce l'hai avuta qualche donna allora? Qualche no, persona? No, ma no, io parlo di amicizia. Ah, di amicizia e basta. Vabbè, però vedi, è una battaglia difficile che dura tutta una vita, quella di essere accettato. Ah, beh, sì, Però ti sento sereno. Ma sì, sì, sì. Hai lasciato il paese e ti trattava da scemo, perché giustamente sì. Alla fine era un problema loro e non tuo. Ma guarda che nella vita devi anche imparare a dire, voi non mi accettate, una volta che mi accetto io, questo è sano egoismo. Basta. Va bene, okay. Buona vita, caro, che devo dire? Spero che le persone che alla fine hai segnato sul muro, qualcuna di quelle, si faccia viva di nuovo. Vediamo. Okay. Sei ancora giovane. Buon viaggio, ma ciao, certo. A presto, salute. ciao. Si ricorda che è attivo il servizio di prenotazione via mail all'indirizzo il treno da @radio24.it.